later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, fabbrica di polli, ci si imbatte sempre nella stessa gente, Gappa e Drago chiacchierano con pollo pasto. Caro pollo pasta, tu che hai le piume tatuate, il moicano sulla schiena, l'anellino al becco, insomma almeno quel che ti resta del becco, tu che hai l'esperienza della fabbrica impressa sul corpo, dai a me, Drago, una dritta, per favore, un consiglio, una perla di saggezza. Eh sì, figurati. Ma che pollo pasta? Non parla? Ma sì, Drago, parla in chicken slang, lo slang dei polli, eh. Ah sì, bella roba. Però che cosa sta dicendo, capisci tu? Eh no, perché solo pochi individui nella fabbrica conoscono lo slang usato dal pollo pasta, eh. Ma sono certo che le capacità sciamaniche del pollo pasta ci saranno utili per trovare il modo di rompere l'incantesimo, Drago, per far ripartire il tempo nella fabbrica e finalmente rimettere le cose al loro posto, come è giusto fare quando si tratta di epica cavalleresca. No, niente, Drago, niente. Ehi, questo vuole un'altra pasticca di ecstasy, eh? Eccotela qui. Ecco, e così secondo te K, questo drogato, sarebbe quello che ci aiuterà niente meno a far ripartire il tempo qui in fabbrica? Ma sì, ne sono certo. Pollo pasta. E vuoi sapere perché? Sentiamo un po'. Fin dai primordi della civiltà, l'uomo usa le sostanze psicotrope contenute in piante e funghi per uscire dal proprio corpo e per infrangere le barriere dello spazio-tempo. In alcune civiltà, la persona più importante della tribù è lo sciamano, sorta di intermediario tra il mondo visibile e quello invisibile. Imbottito di droga e intontito dal suono ipnotico dei tamburi, lo sciamano viaggia nel tempo e nello spazio, e quando esce dalla sua trance può raccontare ai suoi compagni ciò che ha visto. I racconti dello sciamano, una volta interpretati, servono da profezia e da consiglio per l'intera tribù. Incredibile sciamano. Vabbè, ho capito, K, ma una cosa è uno sciamano messicano vero e una cosa è il pollo pasta. Non disperare, Drago, le parole incomprensibili del pollo pasta sono quello che lui ha da dire dopo il lungo viaggio, capito? Un viaggio che è durato anni, nel mondo delle droghe, dello spazio-tempo, hai capito? Adesso si tratta solo di interpretarle, dai, abbi pazienza e vedrai che mi darai ragione. Saturday night chicken, Saturday. Tu sei bianca di Borotalco, ti fai bella per il palco. Graziosa quanto basta, con le piume nuove sulla testa per la festa. Saturday night chicken, Saturday. La fabbrica. Ecco, vedi? Queste sono le rovine dello studio 5050, la discoteca degli anni 90 in cui il pollo pasta si è calato migliaia di pasticche di ecstasy, vedi? Senti come squittisce a vedere i divanetti bruciacchiati dove ha collassato per anni. Non sta squittendo, il pollo pasta sta vaticinando. Sta cosa? Sta vaticinando, cioè sta prevedendo il futuro. Ma dai, e che cosa stai cercando qui tra le rovine dello studio 5050, scusa? Riportare tra queste mura diroccate il pollo pasta, Drago, servirà a fargli fare un viaggio nel tempo, spazio-tempo, per riacquistare finalmente la facoltà di parlare anche la nostra lingua, hai capito? Certo che sei complicato, eh. Ma no, ho solo visto un sacco di film. Dai, ma in quale film si parla di un ex gestore di discoteche che non è mai più tornato da un viaggio psichedelico? Ma cosa c'entra? Scusa, Hitchcock, quando non sapeva come uscire da un vicolo cieco della sceneggiatura, ricorreva all'ipnosi, alla psicanalisi, al rimosso, all'inconscio, e poi filava tutto liscio. Ah, ecco, però con il pollo pasta neanche Hitchcock caverebbe un ragno dal buco, dai. Un ragno dal buco? Ma come parli? Senti, senti, Drago, senti, il messaggio in tedesco di default adesso dice di lineare Verstärkung pollo pasta. Cosa dici? Ma non è vero. Come no? È vero. Vabbè. E allora adesso cosa prevede il tuo piano da Hitchcock? Perché qui stiamo perdendo tempo, eh. Adesso prevede l'ascolto reiterato di una compilation del 1989, la Summer of Love. Quindi non è neanche anni 90 il pollo pasta, no? Ma cosa va? Ma Drago, dai, la Summer of Love londinese dell'89 è l'inizio degli anni 90, lo sanno tutti, dai. Acid rock, acid jazz, acid house, le spillette con gli smile, sesso di gruppo, pollo pasta. Vedi? Vedi che reagisce alla musica dei suoi tempi? Vabbè, guarda che reagisce come reagiva anche prima, e cioè emettendo uno squittio che non ha senso. La mia terapia d'impatto darà i suoi frutti, ah, dai. Sì, sì. Ora facciamo ripartire il fumo finto, dai. Fumo finto? Ma quale fumo finto? Guarda che quello che ti ho venduto è buonissimo. Ma cos'è? Fumo finto. Ho capito, però perché? Perché il pollo pasta deve credere di essere... nel 1989, capito? In piena Summer of Love. Sì, però adesso basta, dai. È un fallimento, K. Dai, né la musica né il fumo finto hanno fatto recuperare al pollo pasta l'uso del linguaggio. Forse perché non siamo nel 1989 e la Summer of Love è finita da mo'. Possiamo provare un altro esperimento, Drago. Ma dai, ancora? Sì, sì, sì, possiamo cercare tra i divanetti se c'è qualche pasticca originale dell'89. Ma così? Perché sicuramente erano diverse da quelle di adesso. Sì, quindi... però dai, a quest'ora saranno scadute. Vabbè, ma è come per i farmaci, al massimo non fanno effetto, non fanno mica male. Sono passati quasi 20 anni, dai, come possono ancora esserci delle pasticche di ecstasy in mezzo a queste macerie? Tu cerca, Drago, e non lamentarti. Il pollo pasta protesta, Perché vuole l'ecstasy dell'89. Ah, sì, come fosse vino? Certo, dell'89. Ma Drago, certo, tu credi che le annate esistono solo per il Barolo? Anche per le donne, se per quello. Però non certo per le droghe chimiche. Fumo finto, musica house, pollo pasta, dai, dici qualcosa di definitivo. Shh, ecco, sta per parlare. Shh, shh, il pollo pasta, dall'alto del suo sciamanesimo chimico... sta per deliberare. Che cosa succederà adesso? La profezia del pollo pasta si avvererà? Ma soprattutto, quando la faremo finita col pollo pasta? Lo so, ve lo state chiedendo in tanti, ma non preoccupatevi, domani è un'altra mezzanotte, per cui trovatevi puntuali su Radio 3 con il prossimo psicotropico allestimento de... la fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it. barlumen.com. Comandante K. Drago! Non sto bene, col pasta!